Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a tutti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, ben trovati. Oggi trasmettiamo dagli studi di Roma, ve ne spiegherò fra qualche istante le motivazioni, anzi ve lo spiego subito. Parleremo di associazione dei consumatori e delle loro relazioni con le aziende. Perché? Dall'energia alle telecomunicazioni, dal credito alla privacy, dai trasporti alla trasparenza bancaria e finanziaria, come sapete, perché questi sono i temi che sono al centro di Salva Danaio ogni giorno, sono tantissimi gli ambiti nei quali un consumatore può trovarsi in difficoltà. Allora, c'è un'associazione che si chiama Consumers Forum, che è un'associazione indipendente composta dalle più importanti organizzazioni dei consumatori, istituzioni, università, imprese ed associazioni di categoria, che appunto si occupa naturalmente direttamente di queste difficoltà, cercando di mettere a confronto costante i consumatori e le aziende stesse che poi in queste difficoltà fanno trovare i consumatori. Questa organizzazione Consumer Forum ieri ha organizzato, lo ha fatto per il sesto anno consecutivo, un appuntamento con le maggiori autorità italiane, le authority, per discutere insieme a loro di tutela dei diritti dei cittadini. E allora noi oggi abbiamo appunto preso questo pretesto per invitare il presidente di Consumer Forum e approfondire i temi di maggiore attualità che impegnano quotidianamente le politiche consumeriste volte a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Buongiorno e benvenuto a Fabio Picciolini. Grazie, buongiorno dell'invito. Fabio Picciolini interviene molto spesso nelle nostre trasmissioni, per una volta tanto ce l'abbiamo qua fisicamente, naturalmente abbiamo approfittato per invitarlo essendo qui a Roma e oggi lo spremeremo in ogni modo. Tra l'altro questa mattina, leggendo un po' i giornali, mi sono ricordata di un altro argomento di cui parlavamo tanto nostro malgrado tanti anni fa e del quale adesso dobbiamo e ci ritocca riparlare. Pare che l'Argentina, Picciolini, sia di nuovo sul precipizio, sull'orlo del baratro, altro che fiscal cliff americano. Qua parliamo di un altro possibile crack per questo paese che potrebbe di nuovo coinvolgere anche i risparmiatori italiani. Lei dice, lo dicevo già un anno fa, che in questa situazione ci si poteva trovare di nuovo da un momento all'altro. Perché? Ma perché la situazione politica, ma anche industriale, a differenza di quello che è avvenuto in Brasile, non è cambiata nel tempo dopo le due ristrutturazioni, ricordiamoci, fatte nel 2001 e nel 2005. Per cui prima o poi era purtroppo prevedibile una situazione del genere. Faccio presente che anche queste due ristrutturazioni che già c'erano state non erano le prime, perché erano la quarta e la quinta dagli anni 50, per cui è un paese che difficilmente riesce a rimettere in piedi le proprie situazioni. E a onorare i propri impegni finanziari con il mondo. Allora, io ho voluto fare questa piccola pillola anche per approfittare e ricordare del fatto che di Argentina parleremo domani con molti ospiti, con anche colleghi del Sole 24 Ore che hanno vissuto a lungo là. Ci sarà con noi Roberto Darin e altri rappresentanti di associazione dei consumatori che già questa mattina hanno ripreso, da qualche giorno hanno ripreso in mano la situazione per capire come si potranno tutelare intanto tutti coloro che hanno aderito al famoso impegno appunto di ristrutturazione del debito e che lo hanno accettato perdendo molti soldi peraltro, perché quegli accordi sono stati estremamente penalizzanti, se li ricorderete. E quindi cerchiamo di capire adesso questa famosa pronuncia del giudice Griesa del tribunale appunto di New York, che è arrivato nei giorni scorsi, che implicazioni ha anche per i coinvolti italiani. Tutto questo però domani. Oggi parliamo di altro. Per le vostre domande su problematiche che state affrontando con qualche azienda, mi riferisco, che ne so, per esempio a quelle che operano nel settore delle telecomunicazioni, una grana con la banca, con l'assicurazione e con tanti altri settori, raccontateci un po' se vi siete rivolte ad un'associazione dei consumatori. Sapete che esiste Consumer Forum, sapete che esistono anche le autorità di controllo di molti settori, vi è capitato anche di rivolgervi per esempio per denunciare qualche misfatto di qualche azienda all'autorità garante del mercato, all'antitrust, all'ISVAP che vigila sulle assicurazioni, a Banca Italia, ce ne sono tante altre, all'autorità dell'energia e del gas. Raccontateci un po' come avete fatto anche per cercare di capire di quali i diritti godete. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre telefonate in diretta. Avete anche la modalità SMS 349 238 6666. Ci potete scrivere anche sul nostro profilo Facebook Salvadanaio Radio24.it Scusate, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Salvadanaio è al profilo salvadanaio-radio24. Su Twitter siamo all'indirizzo @salvadanaio24. Con tutti questi indirizzi che abbiamo messo insieme mi confondo anche io. Intanto adesso la nostra scheda preparata dal nostro Marco Lombardo. Dall'energia alle telecomunicazioni, dal credito alla privacy, dai trasporti alla trasparenza bancaria e finanziaria. Sono tantissimi gli ambiti nei quali un cittadino può trovarsi in difficoltà. Ed è su questi molteplici e differenti territori che ogni giorno si combattono le battaglie del consumerismo. Un impegno che viaggia grazie all'attività di molte associazioni, professionisti, canali di comunicazione e di confronto, e lo fa su un duplice binario. Il primo punto fermo è quello della fiducia, da garantire o da ritrovare, superando gli ostacoli che fanno venire meno le sicurezze di un consumatore nei confronti di un'azienda o di un'istituzione. E non si tratta di un cieco affidarsi, ma della ricerca di una semplice maggiore consapevolezza. Questo è il secondo punto importante, l'informazione, la conoscenza dei propri diritti e delle strade da intraprendere per farli rispettare. È quindi da questi punti di partenza che prendono il via le lunghe battaglie in materia di risparmio tradito, di compagnie aeree e tour operator che spariscono in piena estate, lasciando a piedi i viaggiatori, di gestori telefonici che chiudono un occhio di fronte all'attivazione di servizi non richiesti che pian piano vanno a rosicchiare il credito, e così via. L'elenco potrebbe essere ancora molto lungo, e l'interesse di tutti deve essere sempre acceso su queste piccole o grandi disavventure quotidiane, che purtroppo possono capitare da un momento all'altro e che per prima cosa bisogna saper riconoscere. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi in diretta, oppure scriveteci al 349-238-6666 per questa chiacchierata a 360 gradi che faremo con Fabio Picciolini, presidente di Consumer Forum, ma una lunghissima esperienza anche in Adiconsum, che è la più grande associazione dei consumatori appunto italiana. Picciolini, volevo partire con lei con questa iniziativa che mi viene da dire avete fatto ieri, ma in realtà c'ero anche io con voi, con le autorità nazionali, le autorità appunto nazionali. Quando parliamo di autorità parliamo di tutte quelle organizzazioni che vigilano sul mercato e vigilano naturalmente a tutela dei cittadini. Ne avete invitate ieri ben 10 e oltretutto sono state poche rispetto al potenziale, perché ne manca ancora una all'appello, visto che l'autorità dei trasporti sta nascendo e manca ancora appunto una presidenza. Qual è l'obiettivo di questo incontro annuale che fate appunto con le autorità? Quindi le cito qualcuna, tanto per farle conoscere ai nostri ascoltatori: l'ISVAP, che vigila sul mercato assicurativo, l'autorità per l'energia elettrica e il gas, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che è la GCOM, l'autorità per il controllo sulla privacy, l'antitrust. C'erano davvero tutti quanti. Ma questo incontro, che appunto come diceva lei è arrivato al sesto anno consecutivo, serve per comprendere qual è lo stato dell'arte, come si usa dire. Le autorità indipendenti, partendo dalla prima che è stata l'antitrust, sono nate proprio per dare voce e per dare certezza di diritto ai cittadini e cittadini consumatori, per cui ecco, ne prendo una a casa, penso alla privacy in questo momento in cui i social network e via dicendo stanno spopolando nelle nostre attività giornaliere. Avere certezza che i dati che una persona mette su un social network che siano utilizzati in maniera corretta e mai in maniera scorretta, credo che sia un aspetto estremamente di tutela della persona, in questo caso ancor più di un diritto che può essere appunto quello del web. Ma pensiamo quando abbiamo un'azione commerciale scorretta e si fa la denuncia all'antitrust, così come quando c'è una bolletta non giusta, scorretta, di energia piuttosto che di gas, per parlare dell'autorità dell'energia. Quindi questo è il tentativo. Ieri in particolare noi abbiamo fatto il punto di quello che sta accadendo, perché è un momento molto, molto particolare. Lei giustamente ha detto che manca ancora l'autorità dei trasporti, che forse è l'unica autorità che veramente ancora manca in Italia, mentre forse qualcuna di quelle che esiste potrebbe anche essere accorpata, forse potrebbe svolgere meglio anche in un periodo di spending review, forse potrebbe essere anche accorpata. Ma non solo, ieri abbiamo fatto questa, diciamo, questo punto di situazione, ma abbiamo anche fatto un discorso un pochino più ampio su cui noi siamo estremamente convinti, che è quello che certamente non domani ma nel tempo anche le autorità indipendenti dovranno un attimino conformarsi a quello che è il futuro. Ormai le leggi si fanno in Europa, non si fanno più in minima parte, si fanno a livello nazionale, per cui pensare a una armonizzazione delle tutele dei cittadini che sono sempre più liberi nella loro vita di essere a Roma piuttosto che in Italia piuttosto che in un altro paese europeo, quindi avere norme uniformi quando uno si muove anche dalla propria casa per qualsiasi motivo, mettiamo il più bello, quello anche per divertimento, io credo che sia estremamente importante. Questo è quello che abbiamo provato a fare ieri, tant'è che posso già annunciare che il settimo appuntamento sarà proprio sulle autorità in Europa. Lei ha citato un requisito fondamentale di queste autorità, l'indipendenza. Quali sono le garanzie in questo senso che i consumatori e i cittadini hanno di reale indipendenza di comportamento di queste associazioni? Anche perché ci capita sempre più frequentemente di trovare sui giornali appunto articoli di commento rispetto all'attività di queste organizzazioni che in realtà si soffermano fondamentalmente sul fatto che magari le presidenze vengono invece date in principio soprattutto politico. Ma guardi, se mi permette rispondo come ho concluso ieri l'evento sulle autorità in generale. Io sono convinto che la professionalità e la storia delle singole persone elette, così come il fatto che le loro decisioni vengono prese in punta di diritto, secondo me sono una garanzia enorme. Però poi c'è un sentiment popolare, mentre chi come me ad esempio conosce le singole persone e sa che appunto la loro professionalità e la loro storia sicuramente è sintomo di indipendenza e di autonomia, poi quello che la persona tra virgolette della strada percepisce è quello che diceva lei: ah, ma quella persona era sottosegretario, quella persona era ministro, quella persona era presidente di un'altra authority e guarda caso, come si usa dire, è caduto in piedi. E questo, per questo ieri ho detto una cosa abbastanza semplice, secondo me. Nell'ultima nomina fatta, che è quella per l'agenda digitale, si è scelta una strada diversa, che è una strada credo molto trasparente: presentazione di curricula, esame di curricula e chi è più bravo diventa presidente. Perché bisogna togliere, in questo momento molto difficile del nostro paese, bisogna anche togliere il dubbio, anche laddove magari nella realtà dubbi non ce ne sono. Ieri ho scoperto che ci sono delle autorità che sono impegnate in campi estremamente delicati e delle quali invece si parla molto poco e mantengono un profilo molto basso, chissà se per scelta o così per caso. Per esempio c'è l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Che tipo di relazione ha una autorità di questo tipo con la platea dei consumatori picciolini? Ma io ho avuto il piacere di conoscere il presidente Santoro 2 mesi fa, quando abbiamo cominciato a incontrare tutti i presidenti per questo evento, e ho conosciuto cose che sinceramente non sapevo. Io mi fermo a quello che è stato detto ieri, ad esempio autorità controlla i prezzi medi dei farmaci del Servizio Sanitario Nazionale. Ieri devo dire che Santoro ha lanciato tra la platea una piccola bomba effettivamente molto interessante che magari avremo occasione di approfondire prossimamente. Ci diceva che solamente controllando circa 500 prodotti su oltre 500.000 di prodotti in circolazione hanno scoperto che c'è la possibilità di un risparmio enorme per il Servizio Sanitario Nazionale. Hanno fatto un confronto tra il prezzo del principio generico, esatto, e il farmaco poi brevettato che hanno messo in commercio. Esatto. Ma se posso aggiungere, proprio nell'incontro, non ieri perché ovviamente non c'è stato tempo per parlare di tutto, ma quando abbiamo avuto questo incontro invece di conoscenza, diciamo così, io non sapevo, ammetto la mia ignoranza, che ad esempio i prezzi delle mense scolastiche, che quindi interessano milioni di famiglie italiane, vengono monitorati da parte dell'autorità, così come i prezzi medi delle assicurazioni. Per cui probabilmente... e lo stesso Santoro lo diceva, l'aumento dei compiti e delle funzioni assegnate all'autorità la renderà sempre più vicino alle associazioni dei consumatori e ai consumatori in quanto tali. L'importante è che anche noi dalla nostra parte riusciamo a comprendere poi fino in fondo ciò che questa autorità vale per contratti pubblici, ma vale ad esempio per la privacy o per altri, o per agenda digitale che partirà il 1 gennaio in sostituzione di quelle precedenti note. Esatto, a quel punto lì essere noi per primi a supportare, a stimolare le autorità nei loro compiti. Allora, fra un paio di minuti, Presidente Picciolini, andiamo in pausa, ma direi che vale la pena anche rifare, lo abbiamo fatto in passato, ma per chi ha perso, ovviamente saranno in molti, le puntate in cui ci siamo occupati di questo. Ci rifà invece il biglietto da visita di Consumer Forum, poi ritorneremo magari anche all'attività di azione delle authority, che è il tema sul quale vi state soffermando da qualche settimana. Consumer Forum, che cosa fa e soprattutto con quali aziende dialoga a beneficio dei consumatori? Allora, diciamo che innanzitutto è un'esperienza unica e io sono veramente onorato da qualche mese di esserne il presidente. E cosa fa? Fa incontrare, ha un dialogo aperto, questo è il nostro motto, tra imprese, istituzioni, mondo scientifico e associazioni di consumatori. Senza fare pubblicità, noi abbiamo 13 delle più grandi imprese italiane dei settori più diversi, dalle DLC alle banche, al largo consumo, all'energia e via dicendo. Abbiamo 3 atenei estremamente importanti sparsi per l'Italia, abbiamo 12 delle 18 associazioni dei consumatori. Cosa facciamo? Mi permette di dirlo con una battuta, ci eleviamo rispetto all'attività di tutti i giorni, cioè la nostra attività è quella di essere quasi, non voglio essere presuntuoso, un pensatoio in cui si riesce a discutere di cose che altrimenti a livello di impresa, associazioni, probabilmente non si può discutere, in quanto ci sono le problematiche giornaliere, i reclami, i contratti, le clausole vessatorie e via dicendo. Noi cerchiamo di fare questo, cerchiamo di farlo insieme. Io ho una ferma convinzione, molto, anche se molto elementare, fra 0 e 100 ci sono altri 99 numeri. Se noi andiamo divisi si resta a zero, ognuno va per la sua strada e probabilmente veniamo ascoltati poco in Italia e in Europa. Se invece riusciamo a costruire una percentuale di condivisione su qualsiasi argomento, e ne porto uno molto importante che è andato in Europa come posizione comune di Consumer Forum, quello sul cosiddetti ADR, gli strumenti alternativi di per risoluzione delle controversie finanziarie, ma non solo finanziarie. Esiste una posizione di 34 soggetti, che sono quelli che ho detto prima, che è diventata posizione italiana a Bruxelles, è diventata una best practice. Uh-huh. E questo è il nostro compito. Non vogliamo rubare, tra virgolette, il mestiere alle singole associazioni di consumatori, vogliamo aiutare gli uni e gli altri a discutere senza che questo però senza che questo crei difficoltà, ma anzi consenta miglioramenti. Certo, lei tra l'altro ci ricordava, il presidente, da pochi mesi, ma in realtà questa associazione è nata nel 1999, per cui sicuramente ci saranno anche risultati da raccontare. Intanto le anticipo già, ma poi ricominceremo a sentire in diretta, che i temi più gettonati degli ascoltatori che si lamentano nelle relazioni con le aziende sono, ancora una volta, tema che è uscito anche ieri al convegno, presidente, solo immagino già, i servizi di telecomunicazione non richiesti, la banca che applica spese non previste nei contratti di apertura appunto di conto corrente o di altri rapporti appunto con la banca, il caso Acea che sovraffattura più del consumo che si è verificato, un tema sul quale torneremo, sul quale abbiamo dato grande battaglia. Allora cominceremo a sentire tra poco le problematiche degli ascoltatori. Eccoci ritrovati in diretta con Salva Danaio, ancora buongiorno a tutti, da Deborah Rosciani, e buongiorno anche a Fabio Picciolini, presidente di Consumer Forum, con il quale questa mattina stiamo facendo una chiacchierata a 360 gradi per far conoscere ai nostri ascoltatori che cos'è questa associazione, qual è stato l'impegno di ieri di questa organizzazione che ha incontrato tutte le autorità presenti sul mercato e quelle che con il loro lavoro appunto tutelano gli interessi dei consumatori, anche se qualche volta, Picciolini, questo va riconosciuto, ne è uscito fuori anche ieri un po' questo aspetto. I consumatori hanno la sensazione di essere molto distanti da enti di questo tipo che comunque lavorano per loro. Basti vedere, faccio un esempio che magari anche in questo caso sui giornali è comparso un po' poco in questi giorni. L'antitrust questa settimana ha multato un sacco di aziende per pratiche commerciali scorretti, per messaggi pubblicitari non propriamente corretti, per la questione dei servizi telefonici non richiesti. L'antitrust ha multato aziende del calibro di Danone, Galbusera, Colussi, perché magari promettono di mettere in vendita biscotti particolarmente dietetici e miracolosi. In realtà poi magari sono chiaramente nella composizione più leggeri, ma non fanno tutti questi miracoli, quindi chiedono alle aziende costantemente di comportarsi più correttamente, eppure è molto difficile che il consumatore abbia la percezione concreta dei risultati ottenuti da queste autorità. Come mai? Ma perché sono un po' distante. Io ho una convinzione che è questa: il consumatore medio non guarda molto la, come si può dire, la comunicazione istituzionale. Quindi questo deve essere un segno per un tipo di loro che devono fare le associazioni di consumatori. Oggi lo posso dire da fuori, cioè secondo me è necessario che le associazioni di consumatori si facciano da tramite, cioè laddove avvengono questi fatti, tipo quelli che ha detto lei di questa settimana, ma ricordando quello che è stato detto anche ieri da vari presidenti, quello dei numeri delle sovrafatturazioni piuttosto di costi non spesi, diciamo così, è necessario che quella comunicazione istituzionale arrivi in un certo senso alle associazioni di consumatori come ad altri soggetti, e le associazioni di consumatori le rendano elementari e conoscibili ai loro soci. Fa un effetto. Ricordiamoci sempre che 100.000 soci o 150.000, com'è la mia associazione d'origine, vuol dire arrivare a coprire 500.000 di persone, che poi c'è la famiglia, quindi sapere che senza fare nomi, che l'impresa, la fabbrica di biscotti è stata multata, vuol dire dirlo al papà, alla mamma, ma anche al bambino. Certo, è che qualche volta, Presidente, questo mi è capitato di affrontarlo, questo aspetto, parlando magari un po' più con per esempio i funzionari proprio della G-Com. Qualcuno mi ha detto qualche tempo fa che il fatto di multare molti, ma in maniera anche consistente, un'azienda, intanto l'azienda, diciamo, tocca ben poco del fatturato, perché sono aziende che fatturano effettivamente cifre spropositate, a loro conviene qualche volta di più essere molto aggressive con il marketing e con la politica di aggressione appunto della potenziale platea dei consumatori, piuttosto che sostenere appunto una multa, per cui ci provano. Non è proprio che sia una questione tanto confortante questa. Beh, diciamo, cioè, mi hanno detto che addirittura è un indice di funzionamento del mercato il fatto di essere multati particolarmente tanto. No, ma c'è un vantaggio, che comunque la multa arriva molto tempo dopo e quindi quel messaggio comunque è passato, quel tipo di canone di costo comunque è andato. Pagheranno la multa quando la pagheranno, e che questo è un altro grande problema, che molto spesso multe anche importanti poi vengono annullate dal TAR, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, per cui molto spesso una multa poi si trascina nel tempo, va riscritta, si fa ricorso al Consiglio di Stato e via dicendo. E l'altra cosa, dicevo prima, è anche una velocizzazione delle attività delle autorità. Diceva ieri uno dei presidenti, non ricordo esattamente quale, è importante essere indipendenti, è importante essere autonomi, è importante avere, diciamo così, professionalità interne molto brave per affrontare queste problematiche, ma se poi non ci sono i soldi per mandare avanti la struttura, quindi anche un discorso di funzionamento economico di queste strutture. E dopodiché probabilmente anche in questo caso bisogna anche trovare formule diverse di sanzione. Tante volte, per esempio nel mondo bancario, che conosco, che la mia vecchia vita la conosco un pochino, adesso ho già subito un caso bancario lo per conosco, lei, guarda. Io faccio un discorso generale, faccio negli ultimi tempi la strada è stata quella di trovare accordi tra sistema bancario e antitrust, ad esempio, per abbassare alcune commissioni, abbassare alcune cose. Quindi anche questo è un metodo non sanzionatorio, ma che comunque aiuta il consumatore. E invece Andrea, dalla provincia di Padova, si è ritrovato nuove condizioni di spese del conto corrente, una sgradevole sorpresa. Andrea, buongiorno, ci racconti un po' che cosa le è successo e soprattutto come ha contestato con la banca questa novità che ha dovuto... Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ecco, il mio questione, insomma, ecco, quello che volevo porre a voi era questa. Io ho fatto la surroga circa un anno e mezzo fa, grazie anche ai vostri consigli. Sono passato da un istituto a un altro. Quando scelsi il conto corrente, era un conto corrente con la 36 euro, quello della tassa statale, insomma. Ecco. Sì, l'imposta di bollo. Doveva essere a costi zero, a condizione che dovevo fare online le cose e più dovevo usare il bancomat senza presentarmi allo sportello, se no mi costava parecchio. Però da luglio a questa, che è anche lo spirito di tutti i conti online, che cercano di azzerare praticamente tutti i rapporti diretti con la banca, perché altrimenti non avrebbe senso, no? Aprire un rapporto di conto corrente utilizzando solo internet. Sì, Andrea, ci dica. Quindi costo zero per questo conto. Sì, costo zero da questa parte qui. Però da luglio di quest'anno mi trovo 3 euro addebitati sul conto corrente come canone del conto corrente. Dicendogli fatalità, ho parlato con la direttrice dell'istituto e ha detto che dovevo addebitare, cioè busta paga, cioè doveva essere, e ho detto sì, che io, avendo anche il mutuo, ho tutte e due le buste paghe sul conto corrente che mi arrivano, insomma. E quindi, insomma, allora Andrea, intanto bisogna capire, per esempio, se lei, quando ha aperto questo conto corrente, magari nel contratto c'era un vincolo, una condizione, e il costo, il canone è a zero per un anno, per 12 mesi, poi le condizioni cambieranno. È sicuro di aver letto tutte le clausole? Perché poi ci può anche capitare, Andrea, non è che siamo tutti quanti appassionati di lettura delle condizioni contrattuali del rapporto di conto, che sono spesso scoraggiate. A 50 pagine non penso di aver letto, però loro mi hanno detto così e io sono andato... La fiducia non Andrea, allora sentiamo un po' se fa... No, anche perché sono 36 euro, adesso magari chiaro che non sono quelle 36 euro in più all'anno che ci cambiano la vita, però magari una spesa Andrea ce la fa. Picciolini, allora lei, che insomma il terreno bancario è stato il suo grande, storico terreno di battaglia preferito. Ci sono due aspetti in quello che diceva il radioascoltatore. Il primo, se lui ha avuto un aumento del canone come di qualsiasi altro costo, questo doveva essere detto dalla banca in larghissimo anticipo, in 60 giorni prima, e solamente dopo i 60 giorni questo aumento poteva essere fatto. Allora, quindi Andrea intanto non ha effettivamente citato se abbia ricevuto o meno una comunicazione preventiva di variazione delle condizioni di conto. Se non l'ha ricevuta, lui seguita a pagare le vecchie condizioni. Ma lì fanno il prelievo automatico, lui tanto dovrebbe... Fa un reclamo all'ufficio della banca e poi all'albero bancario finanziario. Ma c'è un aspetto importante che a me interessa molto mettere in evidenza. Come associazioni di consumatori in passato, lo faranno altri ora al posto mio, noi abbiamo sempre fatto, abbiamo sempre chiesto e mai ottenuto purtroppo una cosa molto semplice: le condizioni che vengono proposte a un futuro cliente, lo sappiamo che non possono essere per tutta la vita perché può cambiare tutto, anche per la banca, che però ci sia la certezza 12, 24, 36 mesi che quelle condizioni non vengano cambiate. Perché? Perché se io vado ad aprire un conto presso un'altra banca, vado perché è più conveniente rispetto alla mia banca originaria, ma mi vuoi dare il tempo tu, nuova banca, di... Purtroppo su questo sono anni che lo stiamo chiedendo, seguiteremo a chiederlo, ma poi vedremo se riusciremo prima o poi a spuntarla. Sta tranquillo con questa cuffia, che se la sposta, se la gira, Picciolini, non si sente a suo agio evidentemente con le cuffie. È meglio al telefono. No, infatti lui poi si sente un po' legato. Tra l'altro stavo pensando, in Consumer Forum ci sono due banche molto grandi, ci sono Intesa San Paolo e Banca Monte dei Paschi, ci sono anche le Poste, questo per identificare i soggetti finanziari con i quali interagite. Se Demetrio fosse cliente di una di queste due banche, denunciasse il caso che ci ha appena denunciato, per il fatto di essere in Consumer Forum, a quali diritti in più ha Demetrio? Nel senso, può conciliare un eventuale conflitto con questa banca? Che tipo di vantaggio dà? No, questo è un compito che spetta alle singole associazioni di consumatori e noi non vogliamo entrarci. Noi facciamo qualcosa diverso, non nel settore bancario, perché ancora non ci siamo arrivati, ma speriamo di arrivarci, ma ad esempio in altri settori. Noi formiamo i conciliatori delle associazioni dei consumatori per far sì che professionalmente riescano a confrontarsi sempre più e sempre meglio nella conciliazione con, mi scusi il gioco di parole, con i conciliatori d'Intesa, di via dicendo. Quindi noi cerchiamo, come dicevo all'inizio, di fare un lavoro a monte per professionalizzare anche i nostri colleghi che invece sono sul campo tutti i giorni. Quindi non ha teoricamente una di queste due banche l'obbligo di conciliare con Demetrio per il fatto di essere iscritta a Consumer Forum? No, non è, quello sono accordi bilaterali, accordi o multilaterali che fa la singola banca con le associazioni, con le associazioni dei consumatori. Diciamo che il vantaggio di avere Intesa San Paolo, Posta, Intesa San Paolo, Montepaschi, Posta e Agos, aggiungo, è quello che, dove esistono casi tipo questo, può essere argomento di discussione a monte, quindi senza discutere tutti i giorni come avviene per un caso tipo un reclamo, e cercare di costruire un percorso in cui certe situazioni non capitano più visto in futuro. Visto che avete adottato la strada della conciliazione, esatto, nella sostanza l'ho conciliato in maniera, esatto, benevola, appunto, esatto, anche con i vostri clienti. Allora, io direi di ascoltare, prima di andare alla prossima pausa, il caso di Demetrio da Roma, perché lo voglio risentire, anche se Demetrio, io su questo tema voglio ridedicare al più presto una puntata specifica, e vi prometto che entro Natale lo faccio, perché è stata una battaglia molto dura condotta da Salvadanaio su questo terreno. Demetrio, buongiorno. Buongiorno e grazie per aver chiamato. Grazie a lei. L'esperienza che ho fatto in quanto padre e in quanto utente è la seguente. Mio figlio acquista una casa appena costruita, perciò col contatore a zero, non riesce ad avere la possibilità, per motivi che salto a pie pari, di scegliere il suo fornitore di energia, si rivolge, essendo a Roma, alla CEA. Il contatore dice praticamente zero, la cosa succede a maggio di quest'anno. Gli arriva la bolletta adesso in questi giorni e il contatore segna, se non mi inganno, 200 e rotti euro. Qual è il discorso? Mio figlio, per motivi che saltiamo anche questi a pie pari, abita con me in casa sua, è andata ad accendere la luce qualche volta, per cui è andata a verificare e ha consumato un 1, qualcosa. Allora ha provato a protestare. Gli hanno detto che comunque deve pagare, dopodiché certo, se ne parlerà. Allora, questo è un comportamento di Acea che abbiamo denunciato, che è oggetto di una grossa conflittualità in questo momento fra questa azienda di fornitura di servizi energetici e la appunto collettività romana. Adesso faccio riflettere 2 Fabio Picciolini, che deve prometterci di prendersi a carico anche questa bella rogna romana. Noi ci siamo appunto andati su questo tema, l'abbiamo affrontato, abbiamo sollecitato all'azienda una maggiore attenzione su queste situazioni di letture presunte insostenibili, inqualificabili direi. Ancora a quanto pare non è stato risolto alcunché, e adesso ci ritorneremo fra un istante. Allora, Fabio Picciolini, Acea è la protagonista di un'istruttoria aperta proprio di recente dall'Autorità per l'Energia e il Gas. Ieri il presidente Bortoni lo ha ricordato appunto a questo vostro convegno. Adesso vedremo come andrà a finire. L'autorità fa il suo, vigila anche sulla base di numerosissime segnalazioni ricevute dai cittadini romani appunto sul comportamento di questa azienda. Per la verità, molte società hanno questo comportamento che non ci piace, di fare le letture presunte che molto spesso sono totalmente distanti. Io non dico che non debbano farle, io dico che debbano essere quantomeno più vicine possibili alle realtà dei consumi effettivi delle famiglie. Su Acea ci sono state tante altre vicende circostanti, il passaggio al mercato libero da parte di molti utenti che non è stato esattamente richiesto. Vabbè, adesso non voglio. Cosa deve fare Demetrio per evitare di pagare questo importo che è stato fatturato, ma che non sta né in cielo né in terra? Perché lui dice: ma insomma, questa casa non è stata neanche abitata da mio figlio. Sì, allora, innanzitutto mi sembra molto importante quello che ha detto lei all'inizio della risposta, cioè ecco il classico caso dell'importanza di un'autorità. Cioè, l'autorità ha avviato un controllo, un'istruttoria, per verificare se il comportamento di questo distributore, perché c'è il distributore di energia e di acqua, è corretto o non è corretto. Per cui questo è un aspetto in cui l'autorità è vicino al consumatore, al cittadino, in questo caso all'utente. Per quello che può fare il signor Demetrio, in questo momento purtroppo non posso dare nulla di preciso. Ma mi sembra giusto, perché questa è una denuncia che ci ha fatto molti ascoltatori. L'azienda dice: guardi, se noi siamo consapevoli di questo disguido, chiamiamolo così, lei intanto paghi, poi vediamo come indennizzarla, esatto, ma non va bene. No, esatto. Dicevo, Acea, poi rispondo anche a quello che diceva lei. Allora, Acea peraltro finalmente, dico io, ha avviato una procedura di conciliazione, non è ancora partita ma sta partendo. Però intanto ha incassato un sacco di soldi per chi ha pagato, con la speranza di ricevere la restituzione di quanto... Certo, John, però che ecco, anche qui, quindi non consumo il forum neppure, ma le singole associazioni dei consumatori sono riuscite a mettere intorno a un tavolo CEI, al più presto possibile, credo dal 1 gennaio, sarà possibile conciliare. Qual è l'aspetto? C'è un altro aspetto importante su quello che lei ha detto, su cui dobbiamo intervenire o devono intervenire, che non è solamente il caso del signor De Medio, che quando apre il contratto si trova poi all'improvviso 200 euro o via dicendo. C'è anche l'altra situazione, che la mancanza di controlli ti poi fa arrivare delle bollette a saldo estremamente elevate, molto abbiamo situazioni. Ma non prendono proprio le letture, esatto, da quello che so. Le prendono una volta l'anno, una volta ogni anno. Adesso anche negli uffici sono impossibilitati, gli stessi operatori dipendenti hanno grandi difficoltà appunto a regimentare di nuovo il sistema di lettura. Non mi interessa chi era il gestore, ma diciamo, a noi sono arrivati casi di 2.000, 3.000, 4.000 euro di conguaglio perché non era stato letto il contatore, nonostante che oggi sappiamo ci sono, almeno a Roma sicuramente, ma non solamente a Roma, i contatori elettronici che si possono controllare anche senza andare in loco, tanto per essere chiari. Quindi il discorso è che è un piccolo passo avanti dal primo gennaio, poco dopo, insomma, sarà possibile farlo per quello che riguarda l'azienda romana, con le, diciamo così, con queste compagnie è una, non voglio chiamarla guerra perché non mi piacciono questi termini, ma non, è continuamente un discorso per avanzare rispetto a quello che prima, come diceva lei giustamente, ti devi pagare, punto e basta. Picciolini, un ascoltatore, Fabrizio, ci fa una domanda molto interessante, sulla quale anche qua prometto di indagare, ma se non sbaglio è stato nominato di recente un terzo mister Prezzi. Sì. Lei conosceva molto bene il primo, Antonio Lierosi, un po' più sotto traccia è passato il secondo, Roberto Sambuco, se non mi ricordo male. Chi è il nuovo mister Prezzi? Gianfrancesco Vecchio è un dirigente che fra l'altro è la persona che si interessa proprio di associazioni di consumatori presso il Ministero dello Sviluppo Economico, una persona, devo dire, lo conosco personalmente anche lui, una persona veramente squisita e preparata. Speriamo che possa fare bene il proprio lavoro, perché in questo momento c'era bisogno del mister Prezzi. Non voglio citare le solite cose tipo i carburanti, ma pochi giorni fa c'è stata una grande federazione di distribuzione, c'è stata una importante iniziativa in cui si diceva ad esempio che farina, uova, pane hanno avuto aumenti pazzeschi nel corso dell'ultimo anno. Aggiungo in senso inverso invece un abbassamento ad esempio della carne, questo vuol dire che la qualità peggiora poi alla fine. E quindi secondo me avere un mister Prezzi preparato secondo me è estremamente importante. Lo inviteremo al più presto, ve lo prometto, ci mettiamo subito al lavoro anche in questo caso, speriamo di farlo entro Natale. L'ultimo grande terreno di scontro tra consumatori e aziende è quello delle telecomunicazioni. Mauro da Ferrara, buongiorno, rapidissimo, buongiorno. Se ce la fa. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Guardi, Rosciani, io volevo segnalare questa cosa, una cosa che mi è successa quest'anno a giugno. Ho una ricaricabile e a un certo punto mi ritrovo il credito quasi a zero, ma non l'avevo utilizzato, a fronte di un utilizzo avevo avuto quasi un azzeramento del credito. Allora vado a caricare il listato sulla... Si avvicini alla cornetta del telefono, Mauro. Mi sa che si sta... Eccolo qua. Ecco. Vado appunto a guardare. Aspetti un attimo. Ok, benissimo. Vado a guardare il listato sul sito della TIM, perché poi è la TIM, e mi trovo che c'erano 4 attribuzioni, ma da poche lire, 2 euro ciascuna, con l'addizione traffico promozionale. Certo. Allora mando una mail alla TIM e la TIM mi risponde. E mi dice, guardi che noi le abbiamo, in assenza di promozioni, attivato la New Flat Day, che prevede per delle connessioni internet. Allora io gli rispondo, ma dico, ma guardate che io non ho fatto nessuna connessione internet, io non ho attivato la New Flat Day, non ho fatto niente. Perché? È capitato anche alla mia mamma con un'altra azienda, non le dico che battaglia. Perché? Sì. Benissimo, guardi, non mi rimanda una mail di risposta. E a un certo punto viene fuori una ciliegina, che è questa. In base alla delibera 326/10, non so chi l'abbia fatta questa delibera, l'AGCOM, l'autorità delle telecomunicazioni, rapido Mauro che stiamo chiudendo, alla soglia di 60 euro in assenza di promozioni è possibile procedere al rimborso. Quindi vuol dire che fino a 60 euro questi non rimborsano. Mauro, allora si fermi lì, noi purtroppo abbiamo 30 secondi di tempo prima di chiudere, per cui è un tema sul quale abbiamo sollecitato molto duramente ieri il presidente dell'autorità per le garanzie Cardani, che conosce molto bene questa questione dei servizi telefonici non richiesti, addirittura SMS promozionali che succhiano un po' di traffico. Picciolini, 10 secondi per concludere. No, a gennaio ha annunciato il presidente Cardani che uscirà un'indagine fatta dalle autorità e in base a quell'indagine interverrà, l'ha detto ufficialmente ieri, intanto, su questo argomento. In attesa dei monitoraggi, e noi paghiamo qua queste cose non richieste. Mauro ci scriva se vuole a Salvadanaio, interpelliamo team e vediamo se le possono restituire questo mal tolto, perché ci disturba molto. Picciolini, grazie. Grazie. Complimenti a voi per la sua attività. Grazie. Ci risentiamo presto per altre rogne con le quali ci intratteniamo molto spesso a beneficio dei nostri consumatori. Buona giornata, domani.